quindi passo la parola a Donatella che ha qualcosa di importante da dire. Beh certo, ci sono tantissime di cose importanti da dire su Claudio Baglioni. Cominciamo col dire che Claudio Baglioni nasce a Roma, a Roma nel 1951. Trascorre la sua infanzia nel quartiere di Centocelle, dove comincia ad accostarsi un pochino alla musica e ovviamente nei modi e nei luoghi un attimino più disparati. Si dice addirittura che la prima esibizione di Claudio Baglioni abbia avuto luogo in un'osteria dove cantò una versione di Una casetta in Canada. Il suo strumento preferito inizialmente era la chitarra, che gli venne regalata nei primi anni 60 e che cominciò a studiare con l'aiuto di un maestro brasiliano. Non era un elettricista, no? Quindi. No, questo non era un elettricista, per cui non è nata, non era già nata settimana scorsa, anzi due settimane fa, la chitarra elettrica. In seguito però Baglioni vuole un po' aprire ancora i suoi orizzonti, affianca allo studio della chitarra anche allo studio del pianoforte, anche se cominciano ad affiorare delle difficoltà psicologiche dovute soprattutto a una scarsa fiducia in se stesso. Questo è uno dei problemi che ha Claudio Baglioni, che gli hanno causato dei notevoli intoppi all'inizio della sua carriera. Per quanto riguarda così un quadro generale di Baglioni, possiamo dire che è una specie di cantore di buoni sentimenti che, trasformati ovviamente in canzoni, hanno cominciato col passare degli anni ad assumere dei toni profondi e anche saldamente legati alla cultura popolare del mondo italiano, con alcuni brani come ad esempio I Vecchi oppure Uomini Persi. Ha creato delle immagini abbastanza poetiche. Comunque i risultati abbastanza interessanti li ha ottenuti quando ha lasciato più spazio, diciamo, a sentimenti abbastanza veri e si è lasciato anche un pochino trasportare da questi sentimenti, come nel caso della canzone Avrai, per esempio, dedicata al figlio.